Sì, appunto, la mobilitazione è il culmine, o diciamo il passo ulteriore che segue appunto un anno, più di un anno di mobilitazioni dei lavoratori e delle lavoratrici delle campagne in provincia di Foggia, ma anche a Rosarno, e quindi diciamo è una richiesta in primis di regolarizzazione per tutti coloro che lavorano nel settore agricolo in Italia, perché appunto quello che mi sono dimenticata di dire discutendo il DDL caporalato è che ovviamente si tratta di una legge che non tiene assolutamente in conto l'irregolarità giuridica in cui versano molti dei lavoratori impiegati in questo settore, irregolarità che di fatto rende vana o vano qualsiasi altro intervento, proprio perché il rispetto dei contratti non potrà mai essere garantito se non si ha prima di tutto una piena regolarità. Stiamo parlando di un'irregolarità giuridica cosiddetta che riguarda da un lato persone che lavorano in questo settore, in questi territori anche da decenni, ma d'altro canto negli ultimi anni e soprattutto dal 2012 abbiamo assistito anche all'ingresso di un imponente esercito di riserva di manodopera legato a un cambio di assetto nei flussi migratori internazionali. Stiamo parlando ovviamente soprattutto degli sbarchi conseguenti alle crisi nordafricane e alle varie situazioni diciamo di guerra a più o meno alte intensità che si verificano in diverse parti del pianeta in questo momento e che hanno portato appunto a un aumento consistente degli sbarchi parallelamente alla chiusura totale di qualsiasi altro canale d'ingresso per quelli che vengono definiti dalle istituzioni i migranti economici, ovviamente con una distinzione che assolutamente non ci appartiene tra un migrante economico e un richiedente asilo, ma questo assetto dell'organizzazione del lavoro, questo assetto della manodopera appunto è il risultato anche di una gestione totalmente emergenziale dell'immigrazione in questo paese, ma più in generale in Europa, anche qui un regime di tipo sostanzialmente concentrazionario che appunto poi vede il proliferare di cosiddetti centri di accoglienza più o meno grandi in tutta Italia. Ricordiamo che in provincia di Foggia esiste un mega cara che tecnicamente può ospitare credo circa 600 persone a fronte di una attuale presenza che supera le 1300. E questi sono i bacini, i grossi bacini di reclutamento di manodopera irregolare aggiornata, quindi si tratta anche di una manodopera che presenta caratteristiche di turnover molto elevati, no? Per cui che come diceva anche il compagno prima, ragion per cui diciamo la questione della regolarizzazione per chi lavora in campagna non può essere slegata da un ripensamento più ampio di tutta la questione migratoria. Ovviamente qui parliamo anche di una legge sull'immigrazione, Turco Napolitano prima e Bossi Fini poi, che di fatto ha permesso l'abbassamento delle condizioni dei lavoratori tukur, ha permesso di mettere in piedi una ricattabilità generalizzata che si è allargata a macchia d'olio sempre di più dai lavoratori immigrati sino ad arrivare ovviamente anche a noi italiani, e che poi ha visto in altre operazioni come quella dell'allargamento ad est cosiddetto dell'Unione Europea altre fasi assolutamente salienti. Quindi l'obiettivo di questa assemblea e di questa manifestazione è quello di costruire, di mettere in piedi un percorso che possa arrivare allo smantellamento dell'attuale regime migratorio fondato appunto su un connubio insano tra umanitarismo e militarizzazione, un paradigma appunto securitario umanitario, dove questi due aspetti sono di fatto uno la faccia, l'altra faccia, sono due facce della stessa medaglia sostanzialmente. Quindi l'auspicio è quello ovviamente di ottenere dei risultati concreti per chi da appunto più di un anno si batte per migliorare le proprie condizioni di vita, ma che questo sia il grimaldello per poter incominciare un percorso di smantellamento del regime migratorio più in generale, che richiederà ovviamente un coordinamento sempre più forte, sempre più articolato tra diverse istanze, diverse lotte e diversi territori in Italia e fuori dall'Italia, ovviamente, perché si tratta di una questione europea. E quindi anche di un lavoro capillare sui territori per creare, diciamo, la base sociale, per così dire, che possa avere, cioè costruire un rapporto di forza tale da arrivare a questo risultato. Allora, noi da qui ovviamente siamo ben contenti che in una metropoli come Roma, che ha anche una responsabilità enorme su quello che poi avviene nelle periferie delle metropoli, si crei un momento di corrispondenza rispetto alle lotte che si portano avanti in questi stessi territori e che quindi si possa riuscire a creare un appuntamento che segua diciamo una lotta che è in piedi da diverso tempo, che ha bisogno di un passaggio in una città che insomma è il centro del potere politico di questo paese. Concordiamo anche abbastanza con l'analisi e diciamo che questo paradigma tra la gestione umanitaria e militare delle migrazioni sta giungendo anche a un giro di boa per il quale si giunge tra l'altro a semplicemente parlare di militarizzazione, tant'è che si scavalca tutta la discussione intorno a una buona accoglienza parlando direttamente di una velocizzazione del sistema di deportazione, di esternalizzazione del controllo delle frontiere. Quindi sicuramente ci sarà molto da discutere rispetto a questi dispositivi che l'Europa sta mettendo in campo anche in questa assemblea prevista per domenica. Ti va di dirci un po' dove si farà, come si svilupperà questa assemblea? Sì, allora l'assemblea è prevista per domenica 23, si svolgerà domenica 23 dalle 10:30 del mattino nell'occupazione di Viale delle Province 198 a Roma. Speriamo appunto di concludere entro il pomeriggio, anche perché parteciperanno diverse realtà appunto da diverse parti d'Italia, anche dai confini, diciamo, politici di questo paese, che sono attualmente sigillati, e come Ventimiglia, Como, ma anche Taranto, ovviamente, cioè dalle zone poi dove sono stati implementati i famigerati hotspot, e poi appunto, cioè, insomma, tutte le realtà che hanno visto un coinvolgimento, un protagonismo dei migranti nelle lotte sul lavoro e nelle lotte per la casa, soprattutto appunto visto che in Italia in questo momento il soggetto più conflittuale sono sostanzialmente i migranti, che non hanno peraltro altro ricorso se non la lotta per poter cambiare le cose. Ovviamente nell'assemblea si discuterà dell'organizzazione appunto del corteo dell'11 novembre, e allo stesso tempo appunto speriamo che sia che possa questa assemblea sancire la nascita di un percorso più ampio con l'obiettivo che dicevo prima dello smantellamento del regime migratorio attuale. Allora, noi da qui ovviamente vi ringraziamo sia a te sia al compagno che ha parlato in precedenza. Sicuramente sarà il caso di fare anche un resoconto di come andrà l'assemblea e anche un tentativo di rilanciare a più voci da questi microfoni quella che sarà la mobilitazione prevista per l'11 novembre qui a Roma. Se non hai altro da aggiungere, noi andremo a concludere e a voi insomma vi diciamo buona lotta e un abbraccio solidale. Un abbraccio, buonanotte anche a voi, grazie mille. Ciao ciao. Ciao. Ciao.